Bismillahir Rahmanir Rahim. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Astaghfirullah al-Azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Chiedo perdono ad Allah il sublime, tranne il quale non c'è divinità, il vivente, il sussistente in sé. Atubu ilaihi wa as'aluhu tauba. Mi volgo pentito a lui e gli chiedo il ravvedimento.